Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Sonia Bergamasco per parlare dell'Uomo Seme. Al Teatro Vascello a Roma dal 5 al 10 marzo un racconto di scena ideato e diretto da lei. Sonia, ben trovata. Ben trovato a te. Ci racconti di questo progetto? Sì, nasce l'idea di spettacolo e poi la realizzazione da un piccolo libro che non è per il teatro, è un piccolo libro che mi era stato regalato, che si intitola appunto L'Uomo Seme, di cui mi sono innamorata all'istante. In breve, la storia di una comunità dell'Alta Provenza, una comunità di contadini dell'Alta Provenza, in cui muoiono tutti gli uomini, la metà del 800, siamo l'indomani dell'ennesima guerra, e quindi padri, mariti, fratelli, o dispersi o deportati o morti, e le donne si trovano solo a fronteggiare il lavoro, la vita quotidiana, badare le bestie, tirare sui figli, lavorare i campi, e quindi si fanno carico di tutto questo con molta energia, molta forza, coraggio, ma anche con una rabbia, una disperazione e desiderio che si torni all'armonia precedente e un fortissimo dolore, nostalgia per i propri uomini. Non viene nessuno, passano quasi 2 anni e nessuno si affaccia al villaggio, quindi sono completamente isolate e stringono allora un patto incredibile, sorprendente per la vita, tutte insieme, d'accordo, decidono che il primo uomo che arriverà al paese sarà quello di tutte per ridare vita alla comunità. E così avviene, e così viene raccontato in questo libro. E così raccontiamo noi in scena, noi perché oltre a me c'è un gruppo di 4 cantanti strepitose, che sono attrici cantanti in scena, si chiamano Farawalla, sono italiane, sono pugliesi, hanno una tradizione di canto popolare, etnico, ma anche antico e classico, e hanno una ricerca sul campo di anni e anni, e sono anche compositrici. E ho pensato immediatamente a loro quando ho letto questa storia, perché ho pensato che questa comunità di donne era una comunità che si esprimeva anche attraverso la lingua del canto, nel lavoro, nella preghiera, come conforto, come sostegno, come avviene poi in tutte le comunità contadine che noi conosciamo. E quindi ho pensato che loro erano una presenza perfetta per questo spettacolo. Cos'è che avevi apprezzato di questa scrittura? La lingua forte, scarna, legata a immagini di terra, eppure profondamente espressiva, emotiva, che dà spazio anche a un racconto. Per esempio, il racconto centrale è quello di una storia dell'incontro, del primo incontro tra l'uomo e la donna, che dopo avrà il compito di dire a quest'uomo che il patto è quello che dopo di lei ci saranno anche le altre. E questo racconto di una storia di, insomma, questa notte viene raccontata con una lingua così, così pura, non c'è ombra di volgarità, eppure racconta concretamente l'incontro tra due corpi che non si conoscono. Come hai pensato di strutturare la messa in scena? La scena consiste in un grande albero teatrale, un albero che è una struttura in legno sostenuta poi da una base di ferro, che è un albero abitato in cui le donne salgono, dormono, leggono, attorno al quale girano, un albero in cui i rami si perdono nelle americane e che noi muoviamo a vista attraverso delle funi. E quindi diciamo che la comunità vive attorno a questo albero, l'albero è il centro, il cuore di questa comunità. Dopo Roma proseguirà il suo cammino? No, perché lo spettacolo appunto ha già debuttato l'anno scorso a Milano, al Teatro dell'Arte, è una produzione Teatro Franco Parenti, e quest'anno ho ripreso debuttando a Pontedera, poi venendo qui a Milano, dove mi trovo adesso, al Teatro Franco Parenti, e concludiamo a Roma al Teatro Vascello. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma al Teatro Vascello dal 5 al 10 marzo 2019 con L'Uomo Seme, racconto di scena ideato e diretto da Sonia Bergamasco. Un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Viva il lupo, viva il lupo, grazie. Ciao, ciao. Sonia. Ciao, ciao. Con Marco Ceccotti per presentare il nuovo spettacolo del Nano Egidio, La Vita Premium, Carrozzerie Notte a Roma, 7-8 marzo 2019. Marco, ben trovato. Salve a tutti, mamma mia, che emozione, ci siamo con il debutto, ce l'hanno chiesto in tanti, non in tantissimi, però in tanti, diciamo, e noi rispondiamo con questo La Vita Premium, che matti. Allora, anticipa qualcosa. Allora, grandissime novità, prima cosa, tutti quanti ci conoscono per i pupazzi, allora abbiamo tolto i pupazzi in questo nuovo spettacolo, non ci sono pupazzi, c'è Simona in scena, Simona Oppedisano, la nostra Simona, finalmente in un ruolo da protagonista, sarà lei protagonista assoluta e interagirà con le proiezioni. Ci adattiamo al teatro quello contemporaneo e mettiamo le proiezioni proprio con il proiettore vero, abbiamo montato una scenografia che se ce la vedono quelli dei festival importanti ci staccano subito l'assegno e ci fanno andare, e proprio grandissime, grandissime novità per questo La Vita Premium. Non avete badato a spese? Beh, un pochino sì, ma meno delle altre volte. Abbiamo detto, ma sì, prendiamo questo bel telone, prendiamo questo proiettore. Poi, appunto, di spese, lo spettacolo parla più o meno di questo, della vita e delle spese che si affrontano nella vita. Abbiamo immaginato come trama un futuro prossimo, tipo il 2020 e il 2021, che a seguito di una guerra ci sarà ovviamente crisi economica e per ristabilire un po' l'economia arriverà un grandissimo magnate, un industriale che proporrà una suddivisione in classi da poi scegliere, cioè ogni persona potrà scegliere se andare nella vita free, quindi non pagare per vivere, oppure una vita premium dove tu pagherai e avrai dei servizi migliori. Per esempio nella vita free puoi vivere ovviamente senza pagare alcun prezzo, ma verrai continuamente interrotto da della pubblicità, interagirai con persone tramite chat e farai solamente discorsi frivoli, interagirai solo con oggetti bidimensionali, invece nella vita premium è la vita che hai sempre sognato e potrai fare tutto quello che vuoi pagando una quota mensile. Okay. Questo è più o meno la premessa di questo spettacolo, poi ovviamente ci saranno gag nel nostro stile, gag nuove, e sperimentiamo sempre in questo ambito che è la comicità, questa cosa strana. Ci dici l'idea di partenza e poi come lo avete sviluppato? Ma guarda, l'idea di partenza era, cioè c'è stata l'idea di scrivere un nuovo spettacolo, quindi mi sono messo io bel bello al computer, era un periodo di relativa povertà, nel senso che avevo tolto l'abbonamento a Spotify, no? Cioè Spotify, quindi quando per sentire la musica, quel programma online per sentire la musica, e quindi se non paghi più, sei continuamente interrotto da pubblicità ogni mezz'ora, ti ascolti due o tre canzoni e poi c'è l'opzione. Ho detto, vabbè, proviamo a parlare di questo, applichiamo questo sistema, che non è solo Spotify, ma di qualsiasi altro pubblicità, proviamo a concepire una vita interrotta da pubblicità, che poi non è molto lontano dalla realtà, e quindi ho pensato a questo sistema di vita contrapposto tra una vita dove non paghi ma sei interrotto da pubblicità e non hai dei limiti, una vita piena di limiti, ed una vita senza limiti ma dove devi pagare, ecco. E quindi e poi si è venuto in mente di non usare i pupazzi e di provare a essere burattinai di immagini, cioè di delle immagini proprio quelle generiche che si trovano aziendali su internet, quelle che hanno usato per il reddito di cittadinanza, che hanno cercato coppia felice e hanno messo sul manifesto coppia felice, e poi si è scoperto che erano una famiglia felice, che era stato usato anche per il prodotto di secchezza delle parti intime. Questa cosa mi ha fatto molto ridere, perché noi già l'avevamo fatta prima, cioè utilizzare le immagini commerciali, farle vivere, parlare, ci saranno scene proprio animate tramite il caro e vecchio PowerPoint con cui Simone in scena interagirà suo malgrado, e questa è un po' l'idea. Poi da lì abbiamo sviluppato una storia, cioè parla un po' di tutti, di che cerchiamo sempre una vita migliore, non sapendo cosa, cioè tanto averla migliore, e poi dopo quando arriva chissà se è bella oppure no. Senti, ma tu che l'hai provato sulla tua pelle, com'è la categoria con pubblicità? Ma no, è molto molto brutta, cioè continuamente interrotto, però mi ha dato lo stimolo per scrivere questa cosa qua, quindi dalle cose brutte come la pubblicità. Poi il brutto è che è una pubblicità brutte, cioè le pubblicità belle mi piacciono pure, cioè c'è questa cosa paradossale che le vai a vedere, guardate che bella questa pubblicità, e te la vai proprio a cercare di tua spottare la volontà, invece quando sono proprio brutte, cioè ti fanno male, cioè, e quindi ti rovinavano anche la musica, poi sì, rovinavano la musica, sì, poi sì, siamo alla ricerca di questa vita migliore, vediamo come sarà. Ci lasci tutti i riferimenti della compagnia? Ma certo, noi siamo Nano Egidio, abbiamo tolto il dal nome così per darci un tono che abbiamo come le aziende, no? Abbiamo un nome ogni tanto, quelle piccole. Un restyling, Nano Egidio, siamo ovviamente su Facebook, siamo molto attivi, siamo anche su Instagram, stiamo facendo delle storie molto divertenti in attesa dello spettacolo. Instagram è il Nano Egidio, perché Nano Egidio era già occupato, non lo so se da qualcuno, da qualche nostro fan, o qualche altra azienda rivale che ci ha rubato il nome Nano Egidio e basta. Quindi su Instagram il Nano Egidio, siamo il 7-8 marzo a Carrozzeria e Not, in via Panfilo Castaldi, a due passi dalla stazione Trastevere o dal Maritozzaro o Porta Borghese, per avere dei riferimenti, ecco, culturali. 7-8 marzo, due date secche, per il debutto internazionale. Per prenotare c'è carrozzerienot@gmail.com, potete brigarvi se volete, perché i posti stanno andando via un po' come la vita, passano senza che ce ne accorgiamo. E questo è tutto, c'è Simona in scena, io e Francesco Picciotti siamo i burattinai delle immagini, ci hanno dato una grande mano per la tecnica Camilla Chiozza, un grandissimo aiuto dal punto di vista delle musiche, che ci hanno dato una mano ad editarle Lucio Leoni e il consorzio ZTP. Poi tanti altri, io voglio ringraziare tantissimo Studio 1 e il Nuovo Cinema Palazzo, che ci hanno permesso di provare lì, sono sempre dei grandissimi, e noi vi ringraziamo, abbiamo tanti amici che ci vogliono bene, e se volete diventare anche voi amici che ci volete bene, venite a vedere alla Vita Premium, a Carrozzeria e Not, questo spot commerciale, ho interrotto le vostre vite con un po' di spot commerciale, era iniziato come un'intervista e invece ho fatto lo spot. Con Giuseppe Gatti, autore e performer dello spettacolo Giorgio, che sarà a Roma al Teatro Studio 1 dal 7 al 10 marzo 2019. Giuseppe, ben trovato. Ciao a tutti. Ci racconti di questo lavoro? Sì, il lavoro ormai è al suo terzo anno di messa in scena e racconta il rapporto con mio papà, che è venuto a mancare ormai 10 anni fa. E con la nostra compagnia stiamo con questo spettacolo mostrando, insomma,

da giovedì 7 a domenica 10 marzo presso il Teatro Studio 1 e potrete insomma trovarci seguendo il nostro nome o il nome del teatro. L'appuntamento lo hai ricordato tu, un saluto e un ringraziamento all'autore e performer Giuseppe Gatti. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, un saluto a tutti, ciao. Con Melania Fiore per parlare dello spettacolo Mary Shelley e Frankenstein, poema drammatico di Enrico Bernard con l'interpretazione e la regia di Melania Fiore. Melania, ben trovata. Grazie, grazie mille. Tutto questo allo spazio 18B a Roma dal 7 al 10 marzo 2019. Ci parli un po' di questo lavoro? Certo, allora intanto io ringrazio sempre Enrico Bernard per aver scritto questo splendido lavoro che è una sintesi lirica, potremmo dire, della vita di Mary Shelley. E diciamo che io ho drammatizzato l'opera aggiungendovi anche delle parti in prosa e quindi diciamo la nostra storia si svolge quando appena Percy Shelley è morto, il grande poeta appunto che stava con Mary Shelley, che era il marito di Mary Shelley, e lei nella sua camera con il suo figlioletto appunto nato da questo grandissimo amore prova a scrivere sia per ragioni economiche, insomma per mantenere se stessa il figlio, sia anche per dare finalmente voce al suo spirito di scrittrice che aveva un po' tenuto da parte per seguire in tutto e per tutto questo grandissimo poeta, prova finalmente a dare alla luce quello che poi diventerà la sua opera più celebre, cioè Frankenstein o il moderno Prometeo. Okay. E quindi tutto si svolge diciamo nella sua stanza, lei scrivendo quest'opera rivive un po' tutta la sua vita, no? fino a quel momento, quindi il suo grande amore con Percy Shelley, nella fuga verso Ginevra, dove sarà lì anche con Byron, la sorella e Polidori, e insomma tutta quella festa di vita importantissima, nonché anche quella delle origini in cui lei appunto ha cominciato a maturare il suo voler essere scrittrice. E quindi diciamo la trama è un po' questa, però soprattutto all'interno si svolge, nell'interiorità della protagonista, da cui esce fuori appunto poi quel grande, grandissimo capolavoro che sarà Frankenstein. Da questo vissuto personale che ritratto emerge di Mary? Allora, emerge sicuramente il ritratto di una donna molto forte per l'epoca, anticipatrice in un certo senso, diciamo di quasi un secolo e mezzo del 68, quindi dei movimenti di liberazione della donna, una donna fortemente autonoma, moderna, forse troppo per l'epoca, che si è appunto sempre ribellata a questa morale borghese e perfenista, e una donna estremamente passionale, ma nello stesso tempo anche capace di mettere da parte il suo grandissimo talento di scrittrice per dedicarsi all'amore, quindi all'amore della sua vita. Lei infatti fu curatrice di tutte le opere di Percy Shelley. Come viene fuori l'idea di questo tuo lavoro? Enrico Bernard, col quale io collaboro da diversi anni, mi aveva proposto di interpretare Mary Shelley, che insomma è comunque una delle sue opere di maggior successo. Lui l'ha fatto dappertutto, in Italia, insomma anche in Svizzera, insomma l'ha sperimentato un po' ovunque, e mi ha chiesto di interpretare questo personaggio, quindi io ho scelto di interpretarlo attraverso appunto questo racconto, per così dire, tutto vissuto all'interno, ma che esplora poi fondamentalmente, cioè che comunque ti porta lontano e ti fa volare nelle vicende del passato. E poi soprattutto dal fatto che ho amato tantissimo proprio il modo in cui lui parlava di Mary Shelley. Ho trovato molto originale questo suo raccontare l'opera di questa grande donna attraverso la poesia, sostanzialmente, no? Senti, che percorso farà questo spettacolo? Questo spettacolo diciamo è stato già fatto diverse volte, anche se adesso insomma è stato anche un po' rinnovato, è stato fatto diverse volte a Roma e adesso verrà fatto allo spazio 18B così poi tra l'altro anche in una data particolare, insomma nel weekend in cui c'è anche la festa della donna, quindi anche in un certo qual modo giusto per queste date, e poi continuerà insomma ad essere rappresentato in Italia, per esempio l'anno prossimo sicuramente lo riprenderemo e faremo una tournée. Adesso ci stanno anche comunicando, stanno per comunicare le date di dove andremo, insomma lo faremo in diversi teatri italiani e forse probabilmente anche a Roma di nuovo, insomma. Ecco, a questo proposito ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Certo, allora Mary Shelley e Frankenstein, appunto il poema drammatico scritto da Enrico Bernard, regia interpretazione di Melania Fiore, dal 7 al 10 marzo allo spazio 18B. Che è un diciamo piccolo e delizioso e anche intimo teatro in zona Garbatella. E poi potete diciamo vedere il tutto sia sul sito del teatro su Facebook, ma anche su quello della Compagnia dei Masnadieri, che appunto gestisce lo spazio 18B. Allora, un saluto e un ringraziamento a Melania Fiore, un abbraccio, un in bocca Grazie. Al lupo e a risentirci presto. Un abbraccio a te, è sempre un piacere. Ciao. Con Marco Ceccotti della compagnia Nano Egidio per il nuovo appuntamento di Sgombro, varietà tragicomico numero 25 a Roma, al Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 8 marzo 2019. Marco, ben trovato. Ecco, salve a tutti voi, ecco qua, Sgombro 25. Mamma 25, mia, numero tondo, raccontaci un po', partiamo sempre dalla formula e poi raccontiamo questo nuovo episodio. Eccoci, Sgombro ritorna con la sua formula sempre nuova, perché poi non si sa mai cosa aspettarsi da Sgombro, si fa una scaletta ma poi cambia tutto, un varietà tragicomico, non solamente comico, perché comunque di comicità ne è piena di bella, bellissima, un po' meno, noi vogliamo fare altro, vogliamo fare un po' di teatro comico e anche tragico, viviamo nella tragicità e cerchiamo di far ridere il pubblico del Nuovo Cinema Palazzo con le nostre disgrazie, ecco, noi viviamo le disgrazie e le trasformiamo in risate per tutto il pubblico, così è Sgombro, cioè proprio cambia tutto di Sgombro, ma la tragicità c'è sempre, ecco. Senti, tra l'altro ho visto per questa nuova edizione delle foto pubblicitarie vostre a petto nudo con dei pesci addosso. Abbiamo puntato al massimo, grazie alla fotografa Manuela Giusto, che insieme a Gioia Salvatori hanno creato questo concept del pesce. Siamo fatti un bel set fotografico, ci siamo messi, qualcuno di noi, tipo io, ci siamo dovuti depilare e ci siamo messi del bel pesce fresco addosso per creare così, siamo dei modelli. Noi siamo molto seri, ma abbiamo questo pesce addosso che fa vedere appunto la cosa buffa, ma noi dentro, mentre facevamo questa foto, eravamo il pesce, anche se fresco, abbastanza puzzolente, poi c'era le seppie, che calamari dalle quali scendeva giù l'inchiostro, è stato un bellissimo set, mi sono divertito tantissimo e il risultato sono queste bellissime foto che stanno uscendo pian piano sui nostri canali, sia su Facebook sia su Instagram ogni giorno, e presentano brevemente gli artisti, diciamo il cast fisso, lo zoccolo di pesce duro, il littico duro di Sgombro, ecco. E siamo Botta, Grillo, Morici, Parisi, Gioia, Ivan e noi del Nano in Giro. In più tantissimi ospiti come in questa nuova edizione che ci viene a trovare il grandissimo Andrea Cosentino e il poeta Carmine Tocchia. Questa volta un po' meno ospiti perché Sgombro è bello, ma ci allunghiamo sempre tantissimo. Questa volta proviamo un po' meno ospiti, però il risultato sarà sempre gradito. Ricordiamo anche la formula, quanti minuti a testa, che durata, anche l'intervento delle musiche, insomma, raccontaci certo. un po'. Certo, la musica è sempre presente grazie agli ospiti e a Ivan Talarico che curerà la sigla e tutto l'aspetto musicale. E i numeri sono 5 minuti, con sforamenti anche verso i 7 per i fissi, invece gli ospiti hanno sui 10 minuti, ecco, il tutto dovrebbe durare un'oretta o qualcosa di più, poi c'è sempre interazione del pubblico, poi c'è sempre a Roma che si inizia un po' più tardi, c'è questo vizio che noi non vogliamo smettere mai, un po' come dice Ligabue, però che siamo noi per andare contro queste tradizioni. Poi volevo dire, mi sono sbagliato, Carmine Torchia non è poeta, ma è poeta musicista, ecco, quindi ci sarà anche lui, perché noi ospitiamo sempre un ospite musicale, un ospite di teatro. Tra l'altro, ricordando la pubblicità, c'è anche un bel manifesto ogni volta rappresentante degli animali. Sì, sì, sì. Stavolta è un fenicottero, se non sbaglio. Sì, un bel fenicottero. C'è il progetto grafico curato dal grandissimo Ceccato, che già l'anno scorso l'abbiamo chiamato. Lui è un grafico illustratore bravissimo e tra le sue copertine sono nella lista delle più belle copertine dei libri italiani. E quindi questa volta ha creato questo concept bellissimo su cui ovviamente il titolo è Sgombro, ma ogni volta c'è un animale diverso. Abbiamo avuto un'ape, poi c'è stata sì, questa volta il fenicottero, un leone. Il leone, la mucca è bellissima, infatti ogni volta la prendo una copertina da Cinema Palazzo e me la stacco bella in cameretta. Maurizio Ceccato, ecco, di IFIX, che è la sua casa editrice. Seguitelo perché sono dei lavori molto, molto belli che impreziosiscono di più il nostro varietà, cioè se il merito è anche suo, se siamo così di spicco dal punto di vista grafico. E poi il luogo, come sempre, è il nuovo Cinema Palazzo. Siamo sempre lì, in questo luogo bollato dai potenti che dicono che gli spazi occupati sono luoghi pericolosi, bene, perché ancora non hanno visto Sgombro in varietà. Noi sì che siamo pericolosissimi perché facciamo questa cosa pazza, criminale, di riunirci ogni mese cercando di far ridere, di portare, mamma mia, forse la parola è un po' grande, no? Cultura o quello che è, non lo so, cioè comunque di fare uno spettacolo, di impegnarci per questo, e credo che sì, sia una cosa proprio da pazzi criminali, dovrebbero chiuderci nelle gattabuie, ecco, perché facciamo questo, quindi sì, sempre forza il nuovo Cinema Palazzo e ringraziamo tantissimo per lo spazio che ci dà, riusciamo sempre a riempirlo e loro ci danno sempre una grandissima mano, noi siamo felici di stare lì a fare i pazzerelli con il nostro varietà. E allora ricordiamo Sgombro, varietà tragicomico numero 25 a Roma, al nuovo Cinema Palazzo, venerdì 8 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento a Marco Ceccotti della compagnia Nano Egidio, che sarà tra i protagonisti in scena. Marco, un abbraccio, in bocca al lupo, ci si vede lì. A te, ciao, ciao, ciao. Ciao. Con l'autore e attore Giorgio Felicetti per parlare del suo spettacolo La Terra Tremano, al Teatro dell'Aquila di Fermo, giovedì 7 marzo 2019. Giorgio, ben trovato. Grazie, buongiorno. Ce lo presenti? Volentieri. È uno spettacolo molto potente, come la materia che trattiamo. Si parla di terremoti, di terre in moto, è un grosso affresco sia corale che individuale sugli ultimi 50 anni e sulle devastazioni che l'Italia come paese ha subito. Io mi sono reso conto che trattando questa materia, se c'è una vera storia comune italiana, non è quella di guerre mondiali, non è quella di annessioni, ma è proprio una storia di terremoti, di persone sfollate e terremotate. Dal Belice al Friuli c'è una sorta di filo rosso che unisce la storia italiana ed è quella di paesi devastati e di persone che hanno visto la propria vita cambiare radicalmente dopo una tragedia del genere. Io faccio un lungo excursus che parte dalla fine degli anni 60, proprio dal Belice, per arrivare ai terremoti che di volta in volta si sono succeduti lungo la fascia appenninica e non solo, perché poi a volte questa sequenza deraglia, come è successo nel 2012 in Emilia, la finale Emilia, dove siamo stati l'altra sera in replica con lo spettacolo. Quindi parliamo dell'Irpinia, parliamo di San Giuliano di Puglia, parliamo dell'Emilia Romagna, appunto, parliamo sicuramente dell'Aquila, da dove si è scatenata la crisi sismica più importante degli ultimi 300 anni, che ancora continua, avendo interessato alcuni anni dopo tutto il centro dell'Italia, soprattutto le Marche, il nord del Lazio e l'Umbria, perché poi la storia si focalizza essenzialmente nell'ultimo terremoto, quello del 2016, che è stato il più forte della storia recente e i cui segni sono ancora molto importanti sia nel paesaggio naturale che in quello, soprattutto in quello umano. Io racconto storie di persone a testa in giù, un'umanità capovolta, perché poi nella vita di queste persone c'è un netto, un prima e un dopo. Quello, come dico nello spettacolo, il dopo è visibile, è tangibile, come pezzetti di mattone, no? Tasselli di un puzzle da dover rimettere a posto per tutta la vita. Il prima è tragicamente cancellato, non c'è più. E allora io nello spettacolo cerco di rimettere, come dire, i tasselli di memoria al loro posto e ritrovare questo prima. Per farlo cerco lo sguardo di un bambino, perché poi occorre, per trattare questa mia materia, a mio avviso, la leggerezza che può avere lo sguardo di un bambino ancora, cioè un uomo in essere, il quale sa che davanti a sé c'è ancora tanto tempo, per cui ha la fiducia, la speranza che tutto si rimetta a posto. Giorgio, nel corso di questa serie di terremoti che prendi in oggetto, c'è stato un cambiamento in termini di prevenzione e di ricostruzione? No, mi dispiace dirlo, se possibile le cose sono in qualche modo peggiorate, soprattutto per quanto riguarda il dopo. Io credo che poche persone, se non gli abitanti, i resistenti, i resilienti che sono rimasti nelle comunità, in quei paesi che sono meravigliosi, sono tra i più belli al mondo, poche persone si rendano conto di qual è la situazione attualmente in quei luoghi. C'è un'umanità sofferente, perché la ricostruzione non parte, perché le macerie sono ancora lì, perché tutto è bloccato, c'è un sistema che inspiegabilmente non parte, non dà i frutti, non dà speranza, e questo è chiaramente nelle persone che vivono questa situazione è devastante ancora di più. C'è una frase dello spettacolo che dice: il vero terremoto inizia nel momento in cui finisce la scossa. Ed è proprio vero, perché poi è successo così, che a distanza di 2 anni o poco più da quell'evento drammatico, dopo una prima fase che è quella adrenalinica, che è quella di solidarietà, di soccorsi, in cui tutti corrono e tutti si sentono protetti, pian piano, una volta spenti i riflettori, rimangono le persone residenti con la tragica realtà. Rimangono molto sole, c'è un senso di solitudine e di isolamento fortissimo in quelle popolazioni. Io con questo spettacolo cerco di diffondere tutti i loro stati d'animo, perché poi il racconto che ne viene fuori, questo grande affresco, è anche frutto di testimonianze che io ho raccolto in loco o tra gli sfollati sulla costa adriatica, avendo incontrato tantissime persone, bambini, ragazzi, anziani, donne, uomini che vivevano e vivono ancora in piccola parte, per fortuna, da sfollati. Ne viene fuori, ripeto, un grande affresco dove tutte le problematiche di chi vive una situazione del genere vengono in risalto. Ma attenzione, come dico anche agli spettatori, non crediate che questa sia una storia che riguarda soltanto chi ha subito, perché poi l'Italia è un paese sismico nella sua totalità, per cui è una storia che riguarda tutti noi, come prevenire certe cose e come affrontarle. L'ultima frase dello spettacolo è proprio a dare questo segnale, dice: voglio vivere in un paese che si muove, ma dove le persone non tremano più. Giorgio, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, c'è una pagina Facebook proprio intitolata La Terra Tremano, lì potete seguire tutti gli spostamenti. C'è un progetto molto bello che partirà a breve e che riguarderà proprio i luoghi dell'epicentro. Noi andremo a realizzare questo spettacolo in 10 comuni nella prossima estate, primavera-estate, dei luoghi dell'epicentro nella provincia di Macerata, luoghi bellissimi, anche se in parte devastati. Faccio alcuni nomi: Visso, San Ginesio, per chi conosce quei luoghi, Ussita, tragicamente venuti alla cronaca dopo quei fatti, e cercheremo di creare intorno a questo spettacolo una sorta di festival della memoria del territorio. Siete già tutti invitati, perché sono luoghi turistici e paesaggistici bellissimi. Nella pagina Facebook troverete sicuramente tutti i riferimenti. Spero, anche perché poi riguarda anche Roma lo spettacolo, di riuscire a portarlo a breve anche a Roma. E allora intanto ricordiamo l'appuntamento a Fermo, giovedì 7 marzo 2019 al Teatro dell'Aquila con La Terra Tremano di Giorgio Felicetti. Giorgio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi tutti, ciao. Ciao. Con Silvia Salvatori, che cura la direzione artistica e l'interpretazione dello spettacolo Diario Intimo, libramente ispirato al racconto Il Diario Intimo di Sally Mara di Raymond Queneau, adattamento di Viola Pornaro e Francesco Sala, con l'amichevole partecipazione di Benedetta Russo, a Roma, all'Eliseo Off, dal 1 al 10 marzo 2019. Silvia, ben trovata. Ciao, ben trovati a voi. Grazie, come l'hai detto bene, Raymond Queneau, lo dici meglio di me. Ok. Ci racconti di questo lavoro? Allora, intanto volevo dire appunto la regia di Francesco Sala, ma anche il regista assistente, a cui tengo molto, che è anche Roberto Turchetta. Sono tanti collaboratori di questo spettacolo, ci sono anche una grafica molto importante, dei disegni che sono dietro di me, che raccontano questa storia, che sono stati creati, animati come un cartone di Betty Boop, come il sapore, fatti da alcuni ragazzi che si occupano anche della grafica e dell'animazione di Ballarò, quindi Marianna Verì, animazioni di Federico Baciocchi e Francesca Torricella. Questo ci venga a dirlo, perché certo, non siamo mai soli, anche se io ci metto la faccia e non solo in questo spettacolo, siamo tanti. Okay. Allora, Sally Mara, come hai detto tu, è appunto tratto, liberamente ispirato dal romanzo di Raymond Queneau, Il Diario Intimo di Sally Mara. Nel romanzo Sally appunto è una diciottenne, cattolica, irlandese. Scusate se sentite ogni tanto un po' di motorini, cose che passano, perché io sto per strada a fare l'intervista, ve lo dico. Sally è una diciottenne, come dicevamo, che è cattolica, irlandese, vive con una famiglia un po' strampalata, la mamma che attende il marito che è uscito a comprare la famosa scatola di fiammiferi e non è più tornato, il fratello che si dedica molto all'alcol e al sesso, una sorella più piccola che studia per entrare alle poste e Sally che pensa che le donne sono sempre troppo buone con gli uomini. E questo è il romanzo che lei vorrebbe scrivere. Diciamo che da qui parte la mia curiosità verso intanto un linguaggio di Queneau, che è un surrealista che sperimenta appunto tutte le potenzialità del linguaggio, che io trovo meravigliose. Riesce a manipolare il linguaggio fino alle estreme conseguenze, quindi spesso nel romanzo, ma anche nel nostro adattamento, che teniamo chiaramente alla grande scrittura, ha sempre molto a che fare con l'equivoco e la sconcezza, che però non nasce dalle parole in sé, ma incredibilmente si origina da una combinazione di cose, e quindi diventano veramente dei passaggi molto molto molto spassosi. Non so, te ne dico uno. leva sul ponte e quindi a un certo punto tira vento e si appoggia a un corrimano e a un certo punto sente un uomo dietro di sé, che la mano rimasta libera sente mettere dentro la sua mano un oggetto, e questo signore che gli dice tenga duro, e lei dice in quell'istante mi sono sentita mettere nella mano rimasta libera un oggetto che aveva la rigidità di una sbarra d'acciaio ma la morbidezza del velluto, l'ho afferrato convulsamente, ecco insomma un po' una sporcacciona questa Sally. La cosa che riguarda il nostro adattamento, ma più che altro la regia che abbiamo creato, che è diciamo un omaggio che io ho voluto fare a tutte le nonne, l'ho dedicato alla mia nonna, ma a tutte le nonne, nel senso a tutte quelle donne che sono arrivate un po' al capolinea della vita, ma che l'hanno anche vissuta intensamente, pensando fortemente che poi alla fine, per quanto ci impegniamo, la vita va un po' dove vuole, quindi conviene viverla sempre comunque intensamente. Ecco, questo è un po' il mio omaggio alla femminile, a tal punto che la mia Sally, dico mia, proprio mia, la faccio partire da un'anziana signora. Mi sono un po' ispirata a quelle vecchiette un po' alla Bette Davis, no? Un po' ancora gagliarda e desiderosa di sentire emozioni. Quindi lo spettacolo parte con una Sally anziana che è in una casa di cura e prende il suo diario tutti i giorni e inizia a fare un po' di bordello, nel vero senso della parola, nella sua stanza. Sarà anche infatti appunto l'infermiera gentilmente diciamo di offerta, perché è una collaborazione meravigliosa di questa ragazza di Benedetta Russo, che è tutta una Sally moderna, una Sally di oggi, quindi con le cuffie, con la musica attuale che ciascica, e questa signora anziana invece che ricorda tutto il suo passato che è finito, fatto di bustini scaldati, reggi calze, di ricordi e di emozioni che non ci sono più, e quindi fa un po' di casino fino al suo 18° compleanno, che in modo meta teatrale io mi svesto e faccio uno spogliarello e sotto torno Sally, tolgo la parrucca grigia e torno una 18enne in preda ai suoi alle sue pulsioni erotiche. E insomma, fino a ricomporsi, ora poi non svelo troppo, se no poi dopo, insomma, se no ci vengono a vederlo. Però insomma, uno spettacolo molto spassoso, divertente, nell'adattamento abbiamo tenuto le parti più pruriginose, chiaramente, però anche molto romantico, molto delicato, un grande omaggio secondo me alle donne, appunto arrivate al capolinea, ma che stanno anche a concludere la loro storia con un sorriso. Ecco questo. Qual è stata l'origine di questo spettacolo? Come nasce? Nasce al Festival di Todi, tra l'altro, 11 anni fa, quindi è veramente tanto. Mi sono rimessa in gioco perché era uno spettacolo, diciamo, che era rimasto veramente sospeso per impegni di lavoro, prodotto al tempo con una grandissima collaborazione di Simona Martini, al tempo al Festival di Todi. E è nato dal fatto che io ho letto il libro, il romanzo, mi sono innamorata di questo personaggio, ho chiesto a Francesco Sala Ardiola di farne un adattamento ed è partito così, su questo desiderio, su questa gioia di questo personaggio proprio, mi aveva proprio catturata completamente, ma insomma come sa fare questo scrittore quando leggi i suoi romanzi, anche Giardini al metro, Esercizi di stile, insomma. Mi piace molto, lo trovo, appena leggi vedi subito le cose nitide, è molto chiaro nel suo linguaggio, anche se è manipolato, come dice Sally. nasce da lì, nasce 11 anni fa questo spettacolo, poi per motivi di lavoro l'abbiamo bloccato e poi è nata questa opzione all'Eliseo, dove ho fatto un altro lavoro, un misantropo con Lucrezia Lante delle Rovere, per cui il mio Barbareschi, e visto alla certa età ormai cogli al volo l'occasione, mi ha detto ma tu sei brava, vuoi fare qualcosa? E allora io ho detto sì, c'ho un monologo, e quindi ci siamo rimessi in gioco, abbiamo ovviamente 11 anni di distanza rivisto delle cose E per me è stato anche molto interessante come attrice riportare questo spettacolo dopo 11 anni. E ovviamente ho più empatia con la vecchia oggi che con la giovane, però è anche bello quello, insomma. È come se Sally non è mai andata via. Ho molte assonanze io con questo personaggio. Non sono andata molto sulle passerelle a mettere le mani da qualche parte, però c'è molta... mi riconosco in molti aspetti di questa giovane fanciulla. Senti, ecco Silvia, rispetto alla scrittura di Keno, su cosa avete puntato nell'adattamento? Guarda, nell'adattamento Francesco ha puntato sulle parti, come ti dicevo, un pochino più pruriginose. Ci sono ovviamente dei momenti in cui lei racconta della famiglia, dove si trova, di questo papà, via. Molto il maschile, molto raccontato come lei vede il maschile, quello che succede, il suo amore per il suo professore di francese, Monsieur Presley, che immagina, tutto il maschile che la circonda, fa curiosità nel momento in cui entra nel pollaio, tutti questi animali che si accoppiano. Lei è molto interessata agli arnesi, ecco, in tutti i sensi, agli arnesi maschili, dal pistillo del vegetale in poi. Quindi abbiamo giocato molto sull'ironia, che scritta bene non è mai assolutamente volgare, ma secondo me nel pubblico accende proprio il desiderio per chi l'ha persa di ritrovarlo, insomma, quell'entusiasmo, quella pruderia, via, ecco, ho detto. Ora che l'hai recuperato con l'Eliseo Off, proseguirà il suo viaggio, lo spettacolo? Speriamo di sì, nel senso abbiamo già quasi tutte le serate piene, ovviamente l'Eliseo Off è una vetrina, non sono moltissimi posti, però già se ne sta parlando molto. Io ho assolutamente intenzione di farlo girare, probabilmente farò una serata anche alla Casa delle Donne, dove io ho già fatto delle collaborazioni per, non so, insomma, se lo sapete, per salvare, prendo spunto per, certo, parlare anche, certo, un attimo di questa cosa, per salvare questo posto così importante di accoglienza, dove abbiamo fatto diverse serate, e io vorrei farlo lì, evolvere il mio piccolo, insomma, incasso, ma più che altro perché è una storia di una donna, e tutte le storie delle donne, voglio dire, in quel contesto lì vanno assolutamente raccontate. Bene. Sì, cerchiamo di farlo girare, sto chiamando un po' di distributori, ci sono diverse persone interessate, incrociamo le dita e Sally salta intanto, la nave salta, vediamo dove arriva. Ok, e allora noi ricordiamo l'appuntamento all'Eliseo Off a Roma dal 1 al 10 marzo 2019 con Diario Intimo, liberamente ispirato al racconto Il Diario Intimo di Sally Mara di Raymond Queneau, con Silvia Salvatori che ne cura direzione artistica e interpretazione. Silvia, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Grazie, Credio Vivi, grazie, ciao. Ciao. Il regista Fabrizio Arcuri presenta lo spettacolo Max Gericke, che sarà in scena abbinato all'altro spettacolo La chiave dell'ascensore per il progetto Donne Teatro Diritti a Milano, Pacta Salone, dal 5 al 10 marzo 2019. Fabrizio, ben trovato. Eccoci, ben trovati a voi. Ci racconti? Questo spettacolo si inserisce all'interno di un piccolo percorso che ho iniziato a fare all'interno delle fiabe e delle favole, perché mi sembrava interessante confrontarmi con delle narrazioni che fossero comuni a tutti e sul quale si potessero fare delle riflessioni, si potessero vedere delle cose che normalmente non si vedono e che sono in filigrana, per cui ho lavorato su Pinocchio di Pomerà, su Cenerentola di Pomerà e poi ho incontrato questo testo abbastanza curioso, è una sorta di Biancaneve al contrario, un testo di un allievo di Heiner Müller, sostanzialmente un attore, che ha scritto questo testo che si intitola Max Gericke, e che è sostanzialmente la storia di una donna tra le due guerre in Germania a cui muore il marito, e per trovare lavoro è costretta a vestirsi da uomo e a continuare a fare il lavoro del marito. E nel corso del tempo questo escamotage in qualche maniera gli torna utile per tutta una serie di motivi, quindi malgrado lei diventa appunto quasi, sì, potremmo dire un gender, ma non per motivi legati alla sessualità, ma per motivi legati invece al lavoro, quindi direi quasi appunto una sorta di lettura marxista dell'aspetto transgender, e praticamente racconta in qualche maniera la sua vita e gli escamotage confrontandosi sempre con questo alter ego che è se stessa femminile, che però poi in qualche maniera gli scompare tra le mani sostanzialmente. Cosa ti ha convinto maggiormente, la tematica o la scrittura o entrambe? Devo dire che naturalmente la tematica è molto forte perché pone l'accento su una questione femminile in maniera molto radicale, perché il ruolo nella società delle donne comunque ha sempre subito un trattamento, diciamo così, sì, insomma, a sfavore sostanzialmente, ed effettivamente la scrittura è molto asciutta e severa e non rende mai questo racconto, diciamo così, melodrammatico, ma lo eleva sempre a questione politica, insomma, e quindi induce a delle riflessioni curiose senza mai necessariamente, come dire, insomma, passare attraverso l'emotività, attraverso l'immedesimazione, no? Perché appunto è una figura abbastanza sui generis sostanzialmente. Dopo queste due date romane? Insomma, questo è uno spettacolo che ha debuttato 2 anni fa e che ha già avuto una tournée abbastanza nutrita, dunque adesso rimangono delle date un po' in giro per l'Italia, insomma, ma insieme all'altro lavoro, sempre ispirato a delle favole, che è La chiave dell'ascensore di Agota Christoph, saranno in scena la settimana dell'8 marzo al Pacta Salone di Milano, perché appunto entrambi i testi riflettono sul ruolo della donna nella società in maniera molto diversa e in modi abbastanza diversi, chiaramente perché le scritture sono molto molto diverse, però diciamo appunto hanno dei tratti in comune, insomma, no? La tematica, e dall'altra parte naturalmente il fatto che si riferiscano ad una favola come punto di partenza. Insomma, da una parte c'è Biancaneve, dall'altra parte c'è invece la principessa rinchiusa nel castello, dunque diciamo dei logos abbastanza tipici su cui poi dopo andare a fare appunto delle riflessioni, insomma. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabrizio Arcuri. Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Arrivederci, grazie. Max Gericke, che sarà in scena abbinato all'altro spettacolo La chiave dell'ascensore per il progetto Donne Teatro Diritti a Milano, Pacta Salone, dal 5 al 10 marzo 2019. Ed eccoci alla settimana teatrale romana con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, che ci dice le cose che stanno per succedere. Ciao Simone. Simone Nebbia dice le cose, Simone Nebbia dice tutto, Simone Nebbia confessa quello che c'è durante la settimana. Allora, un po' di cose te le ho annunciate, di quelle di cui abbiamo parlato con i nostri ospiti, per il resto vai tu. Va bene, allora vado io, vado tranquillo, vado liscio. Stanze segrete dal 5 marzo al 10, quindi da questa sera fino a domenica, La casa del padre, scritto da Giovanna Lombardi, la regia di Francesca Fiorentino, è un lavoro questo che chiaramente ha a che vedere con la casa, come nido di amore e di protezione del padre, che è un luogo senza contaminazioni del figlio primogenito che non era atteso, generato da padre sicuro e da madre incerta, curioso effettivamente, a volte insomma si pensa al contrario. Quindi una sorta di fiaba antica che va a riscoprire un po' l'archetipo e ritrovando anche insomma il mondo degli arcani attraverso quelle che poi sono le carte dei tarocchi, che vediamo la figura del mazzo, dell'eremita, la papessa, la vergine, il folle. Insomma, un ritorno verso l'origine nel grande, grande dilemma del rapporto tra padre e figlio. La casa del padre, 5-10 marzo, teatro, stanze segrete. Per i più domenica 10 marzo al Teatro Centrale Preneste, il Teatro Evento di Modena presenta Bianca Nera alle 16.30 per bambini dei 4 anni in su. Due corpi danzanti, uno bianco e uno nero, quindi insomma, un buon lavoro probabilmente sull'integrazione, due attrici di cui una di colore Bintu Guantara e Alice Lungero. Dunque invece Teatro Tordinona, per vedere il dialogo tra Prometeo e Sisifo, dall'8 al 10 marzo di Gianluca Righi, il nostro vecchio amico, insomma compagno di battaglie, ci sono due personaggi della mitologia greca, Prometeo e Sisifo, in questa messa scena teatrale sono due maschere di commedia dell'arte. Osarono sfidare il padre Zeus, si incontrano una volta l'anno e vanno a rispiare le loro colpe e intanto preparano una cena. Quindi 8-10 marzo, Teatro Tordinona, per dialogo tra Prometeo e Sisifo. Poi ti porto anche al Palladium, dove questa settimana, sabato, il 9 marzo, ci sarà un racconto teatrale che ha per protagonista Freud, il spettacolo si chiama Herr Freud, Signorelli Mosè, il Rebus. Freud è la ricerca di se stesso e della psicanalisi in un confronto con il fantasma del padre. Questo è quello che andremo a vedere il 9 marzo alle 20.30 per il collettivo Teatro Animazione con Guido Barlozzetti. Poi, dunque, al Teatro del Lido di Ostia torna a Roma 9-10 marzo, sabato e domenica, Tvat, questo lavoro di Luigi Morra, Pasquale Passaretti e Edoardo Ricciardelli che firmano questo lavoro, ispirato a East and West di Stefan Berkov, che ricorderemo come un grande autore teatrale, un grande attore. Poi 8-10 marzo per questo Teatro Sofia, via della Vetrina 7, ti giuro non so neanche dove sia, per un racconto di Giorgio Maragorta che vede la scena, che dopo in realtà è un monologo tratto dal suo testo, l'8-10 marzo, Pasolini a Villada, da un'idea di Ivan Festa che lo dirige e lo interpreta. Quindi andremo dunque a rintracciare questo Pierpaolo Pasolini, racconto dell'amicizia tra l'autore e Giorgio Maragorta, appunto il poeta friulano, raccontata poco ma che finalmente prende insomma la via del racconto pubblico. Poi ancora di Sgombro si è parlato, così andremo al Teatro Eliseo. Ricordiamo, nella sala grande dell'Eliseo ancora esce Re Gaetanaccio fino alla fine della settimana, mentre nella sala piccola, piccola Eliseo, Regina Madre, Manlio Santanelli, che è l'autore di questo lavoro, che sta in scena dal 17 di marzo, con Fausto Vissaresi e Imma Villa, e la regia di Carlo Cercello. Regina Madre è un testo molto noto di Manlio Santanelli, è del 1984, che può essere considerato, non so, un po' un classico insomma del nostro contemporaneo, un'opera un po' ambigua, ironica e divertente, ed è un duello tra madre e figlio che combattono insomma attraverso la parola e con il loro, la loro verba per cercare di difendere ognuno le proprie posizioni. Quindi andremo a vedere Gira Madre in questo rapporto un po' complesso dal 7 al 17 marzo al Teatro Piccolo Eliseo, ed è nell'ambito di Le vie dei festival. Lo dico perché anche al Teatro Vascello siamo sempre nell'ambito delle vie dei festival per l'Uomo Seme, dal 5 al 10 marzo, da stasera fino a domenica, con questo Inno alla Vita di Violette Ailloud, che ha scritto questo L'Uomo Seme, che è un raccontino molto piccolo e molto intrigante. Non so se a qualcuno è capitato di leggerlo, ma si tratta del un paese, una sorta di troiane del Novecento, un paese completamente privato degli uomini, la guerra ha privato il paese degli uomini, sono rimaste solo le donne, e un uomo che passerà di là sarà come dire, un po' l'origine, la nuova origine della specie, la nuova origine di quel paese, che potrà vivere soltanto attraverso il seme di quest'uomo che ridarà vita al paese. In scena interpreta e dirige anche Sonia Bergamasco, quindi Teatro Vascello, 5-10 marzo, L'Uomo Seme. Ancora, ti porto all'Off of Theater, dove Gianni De Feo presenta Tangeri, ed è una pièce con la scelta della figura del celebre cantante ballerino spagnolo Miguel de Molina, icona di Pedro Almodóvar, che ha vissuto durante la dittatura franchista, è stato perseguitato perché omosessuale e antifascista. all'Offo Theater dal 5 al 10 marzo per questo Tangeri di Gianni Tefeo. Poi, un po', che cos'altro abbiamo? Abbiamo sicuramente Walter Marotti che è a Roma questo weekend con il primo capitolo della sua della trilogia lui dedicato al teatro Torlonia, ed è questo giro di vite dedicato alle figure letterarie, la trilogia dedicata alle figure letterarie di fine 800 narrate dalla penna di Camillo Boito, Lev Tolstoi e Henry James. Il giro di vite è chiaramente il capitolo dedicato ad Henry James, e ci sarà in scena Irene Vivaldi per questo lavoro su questi grandi padri della letteratura mondiale. Quindi 8-10 marzo Teatro Torlonia per Walter Malotti con Giro di Vite. Ancora ti porto in un paio di luoghi. Il primo è il Teatro Argentina, perché questa settimana debutta Pippo Del Bono con La Gioia. Da questa sera fino al 10 di marzo Pippo Del Bono porta sulla scena questo sentimento bello, misterioso, come l'angoscia, il dolore, la felicità, l'entusiasmo, un po' mescolati questi sentimenti. Ci sarà un vortice di suoni, di immagini, di balli che si fondono con la magia del circo, il clown, la clownerie, il tango, le maschere e le storie personali. Questo appunto un grande, grande contenitore di meraviglia, lo spettacolo di Pippo Del Bono, La Gioia, che sarà in scena dal 5 al 10 di marzo al Teatro Argentina. E al Teatro appunto del Teatro Nazionale, Teatro Argentina, che ha anche un'altra sala, l'altra sala si chiama Teatro India, e questa settimana al Teatro India sarà l'occasione da domani 6-10 marzo per ammirare Il cielo non è un fondale. Le Florian Tagliarini, l'abbiamo già visto a Roma, quattro personaggi, più che altro quattro persone che sono figure in un atto drammatico, senza trama e senza finale, alla ricerca di chi sono gli altri in noi e chi siamo noi negli altri. Questo è un po' il lavoro concettuale, filosofico che portano in scena Daniele Florian e Antonio Tagliarini. Noi andremo a vedere al Teatro India dal 6 al 10 marzo. E questo, Federico, è tutto. Simone, un abbraccio e alla prossima. Ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.